Io vorrei insieme con voi questa sera partire dal Vangelo della risurrezione di Lazzaro, ecco, il lungo Vangelo che noi abbiamo letto, perlomeno io ho letto nella messa della quinta domenica di Quaresima del rito romano. È un Vangelo che caratterizza da tanto tempo la Quaresima, perlomeno la quinta domenica di Quaresima, che aiuta i catecumeni che vanno verso la Pasqua a scoprire un altro significato del battesimo che riceveranno, no? Che significa ricevere una vita nuova in Cristo Gesù, e di cui la risurrezione che Lazzaro ha ricevuto come dono da Dio è un'immagine. E anche a noi può servire tornare a leggere questo Vangelo in parte per riflettere sulla vita nuova che in Cristo abbiamo ricevuto. È una vita nuova che è molto più grande, molto più forte, molto più duratura di quella che ha ricevuto Lazzaro. È una vita divina, è una vita soprannaturale, è una vita della grazia. Quella di Lazzaro è la vita umana, che è un dono immenso di Dio e che lui aveva perduto e che ha ritrovato grazie all'intervento di Gesù, del suo amico Gesù. Ma noi stiamo andando verso la Pasqua e entriamo nella Settimana Santa e alla fine mediteremo sulla risurrezione di Cristo che è qualcosa di molto più grande della risurrezione che ha avuto Lazzaro. È una risurrezione di tipo diverso, è la primizia della risurrezione della carne che noi avremo come dono suo alla fine della vita. E questo sì che ci dice la risurrezione di Cristo, che quando noi riceviamo il battesimo entriamo dentro alla sua vita, entriamo dentro alla sua vita. E viviamo una vita nuova, viviamo la sua vita, la vita di Cristo risorto. San Giovanni incomincia così questo brano del Vangelo. Un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e di Marta, sua sorella, era malato. Maria era quella che cosparse di profumo il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli. Suo fratello Lazzaro era malato. Le sorelle mandarono dunque a dirgli: Signore, ecco, colui che tu ami è malato. Allora, mentre leggevo questo Vangelo nella messa di domenica scorsa, io pensavo, ma guarda un po' che meraviglia il fatto che noi abbiamo questo racconto. E è solo l'Evangelista San Giovanni che lo racconta. Gli altri tre evangelisti non lo riferiscono. Non sappiamo neanche dell'esistenza di Lazzaro, il fratello di Marta e di Maria, per gli altri evangelisti. Giusto San Luca narra di Marta e di Maria, in quel breve episodio che tutti conoscono, in cui Marta è molto presa da tutti i servizi e Maria invece sta seduta ai piedi di Gesù a bere le sue parole. E è un Vangelo che spesso le donne ricordano perché è molto frequente che si sentano come Marta, anche se poi ci sono anche donne che assomigliano di più a Maria. Però poi a volte si sentono un po' in colpa le Marte perché si sentono troppo Marta, le Marie perché si sentono troppo Maria. E invece in Gesù questi due modi di essere donna, non a caso sono due sorelle. E questi due modi di essere donna vengono da Gesù entrambi amati, quindi entrambi capiti e resi un cammino possibile per essere con lui. Andando avanti nel racconto di San Giovanni, a un certo punto Giovanni dice: Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. E Gesù ama il modo di essere di Marta, il modo di essere di Maria. In quel brano del Vangelo di San Luca, che tutti conosciamo, in fondo si nota che le due sorelle pregano in modo diverso. Maria prega ascoltando Gesù in silenzio, Marta prega urlando o protestando, arrabbiandosi con Gesù, che sono due modi entrambi leciti, entrambi accettati da Gesù di pregare. L'unico problema è che in quel caso Marta non si sta rendendo conto che sta pregando. E Gesù dice: Maria ha scelto la parte migliore. Però tratta Marta con un enorme affetto. Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose, ma Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta. Noi, guardando l'altro episodio che arriva dopo, no, dell'incontro di Gesù, della vicenda di Gesù con la malattia e poi la morte di Lazzaro, loro fratello, possiamo ricordarci sullo sfondo quest'altro episodio e scoprire che Gesù ama e accetta le due sorelle così come sono e poi allo stesso tempo le mette d'accordo, supera il loro confronto, la loro rivalità, possiamo dire così, o la preoccupazione di essere giudicata l'una dall'altra, oppure forse un po' di invidia, insomma una difficoltà che c'è tra di loro. Gesù la supera e le mette insieme. Io penso che quando poi si arriva a questo altro evangelista, quindi altre tradizioni, dicevo, ringraziamo il Signore che esiste il Vangelo di San Giovanni con tutta una serie di episodi che gli altri tre evangelisti non hanno raccontato, no? Anche il singolo Matteo, Marco e Luca, ciascuno di loro ha degli episodi assolutamente personali che gli altri non hanno. E questo, che si è detto un po' tra parentesi, però a me aiuta perché mi fa pensare che ciascuno di noi, anche nel suo apporto che può dare alla vita della Chiesa, nell'apporto che può dare all'evangelizzazione, è valorizzato da Gesù. Ciascuno di noi può dare un apporto singolare, personale, unico e irripetibile. Il Signore ci ama così, Lui ci ha creati e ci è venuto a chiamare personalmente con il nostro nome, ci è venuto a salvare e noi, sentendoci guardati da Lui, sentendoci cercati da Lui, no? Come, a volte come la pecorella smarrita, altre volte come una persona cara che gli sta vicino, ma che Lui chiama continuamente ad avere una intimità di vita con Lui, ci possiamo sentire amati come noi siamo. Potremmo dire così, parafrasando quello che la dottrina cattolica dice di Gesù, che è diventato uguale a noi in tutto tranne che nel peccato, no? Allora Gesù ci ama per come siamo, Non può amare il peccato, però il peccato diventa per lui l'occasione per venirci ad amare, per venirci a cercare, per portarci verso di sé. per operare un miracolo di guarigione, un miracolo addirittura di resurrezione, come fa con Lazzaro. Non ci sarebbe la liturgia pasquale senza questi episodi che San Giovanni racconta, no? La samaritana, la guarigione del cieco dalla nascita e la risurrezione di Lazzaro. E poi dopo anche gli episodi che leggeremo nei prossimi giorni, che ascolteremo nella liturgia nei prossimi giorni, no? Pensate il Giovedì Santo, la lavanda dei piedi, eh? Gesù che lava i piedi dei suoi discepoli. Questo è un episodio unico di Giovanni. E poi, fra l'altro, gli dice: vedete quello che faccio, dovete fare anche voi tra di voi allo stesso modo. E poi arriveremo insieme con lui sotto la croce, e Giovanni è il discepolo che sta sotto la croce, il discepolo amato, e lui ascolta quell'affidamento che il Signore fa di ciascuno di noi insieme con lui alla Madonna come figli. Riceviamo la Madonna come madre. E poi quando c'è la risurrezione, l'incontro personale di Gesù con Maria Maddalena, che lo va a cercare, ma lo cerca come uomo morto, no? Da amare così, imbalsamando il suo corpo e profumando il suo cadavere, invece si dispera perché non lo trova più, teme che lo abbiano preso e portato via, che qualcuno abbia rubato il suo Signore, e invece si sente chiamare per nome da lui anche se non lo riconosce subito. E poi è proprio a lei che Gesù dice: vai, ecco, no, non mi trattenere perché ci vediamo ancora. Non salgo subito al Padre. Però vai dai miei fratelli e digli che sono risorto. E lei va e poi lo ritrova lì. Come a dirgli Gesù che c'è una sua presenza nella Chiesa. Una sua presenza per cui anche la sua ascensione in cielo non ci deve far sentire orfani di lui. E tutto questo percorso che faremo nel meraviglioso tempo pasquale, fino alla Pentecoste, noi dobbiamo prepararlo in questi giorni di Settimana Santa e passando attraverso questo incontro, questo episodio della risurrezione di Lazzaro. E Gesù dice ai suoi discepoli: io andiamo di nuovo in Giudea. I discepoli gli dissero: Rabbì, poco fa i giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo. E Gesù rispose: non sono forse 12 le ore del giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa perché vede la luce di questo mondo. Ma se cammina di notte, inciampa perché la luce non è in lui. Disse queste cose e poi soggiunse loro: Lazzaro, il nostro amico, si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. Gli dissero allora i discepoli: Signore, se si è addormentato si salverà. Gesù aveva parlato della morte di lui, essi invece pensarono che parlasse del riposo del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: Lazzaro è morto. E io sono contento per voi di non essere stato là, affinché voi crediate, ma andiamo da lui. Allora Tommaso, chiamato Didimo, disse agli altri discepoli: andiamo anche noi a morire con lui. E le sorelle gli avevano detto: colui che tu ami è malato. Le sorelle Marta e Maria, che prima non erano ben sintonizzate, non erano ben unite. Poi Gesù le mette insieme, le unisce, e dopo, quando accade questo problema di Lazzaro, sono unite nel pregare Gesù. Gli mandano insieme la stessa preghiera. Questo colui che tu ami è malato, vieni. E poi quando vediamo che Gesù arriva, che Lazzaro è già morto da 4 giorni, l'una e l'altra, mantenendo la loro personalità diversa, perché l'unione con Cristo non deforma la nostra personalità, non la appiattisce. È vero, ogni cristiano che vive la vita di Cristo assume in qualche misura anche la sua personalità, però rafforzando la propria. E allora si vede in questo episodio che sia Marta che Maria, mantenendo la propria caratteristica, la propria personalità, il proprio modo di essere, vanno da Gesù in modo diverso, ma pregano nello stesso modo. Quando Gesù arrivò, trovò che Lazzaro, che già da 4 giorni era nel sepolcro, Betania distava da Gerusalemme meno di 3 chilometri, e molti giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Gesù le disse: tuo fratello risorgerà. Gli rispose Marta: so che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno. Gesù le disse: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi questo? Gli rispose: sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Dette queste parole, andò a chiamare Maria, sua sorella, e di nascosto le disse: il Maestro è qui e ti chiama. Vedete come, pur mantenendo ciascuna la sua personalità, Marta è più attenta, più attiva, più rapida, ipercinetica. Invece Maria è più sedentaria, più riflessiva, più meditativa, più silenziosa. Ma se nel primo episodio, quello che è raccontato da San Luca, Marta si secca che Maria sia così, e addirittura che Maria stia a parlare con il Signore Gesù, in questo momento lei ha capito la lezione, è cambiata. E è addirittura lei che cerca Maria, che la avvisa che c'è il Maestro e che vada da lui. Il bello è che l'evangelista non dice se Gesù ha detto a Marta: Maria dov'è? Vai a chiamarla. Non lo dice. Può averlo detto, può non averlo detto. Comunque Marta ha capito lo stesso. E corre da Maria e le dice la verità. Gesù ti chiama, anche se non l'ha detto, è vero che Gesù ti chiama. E una delle frasi più belle del Vangelo è: il Maestro è qui e ti chiama. E noi possiamo sentircela dire tante volte lungo la vita, anche adesso. Io la posso dire a ciascuno di voi: il Maestro è qui, Gesù è qui presente in mezzo a noi, è presente nell'Eucaristia, è presente nel vostro cuore, è qui e ti chiama. Sia che tu assomigli più a Marta o che tu assomigli più a Maria, o in qualunque altro caso, perché non... ciascuno di noi è unico, no? Anche se ha delle somiglianze. E, udito questo, ella si alzò subito e andò da lui. Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta gli era andata incontro. Allora i giudei, che erano in casa con lei a consolarla, non ci dobbiamo meravigliare se qualche volta Gesù ci aspetta là, fuori dal villaggio. e non ci viene incontro, perché questo lo fa non perché non pensi a noi, non perché non ci ami. Gesù amava Marta, amava Maria, ma perché fa bene a noi manifestare che gli vogliamo bene così, alzandoci e correndo verso di lui. E ci fa bene manifestare la nostra libertà. Vengo perché voglio, vengo perché ti amo. Allora i giudei che erano in casa con lei a consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono, pensando che andasse a piangere al sepolcro. Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide, si gettò ai suoi piedi dicendogli: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Vedete che è la stessa preghiera di Marta? Forse si erano messe d'accordo. Quando viene il maestro, gli diciamo così, Non sia mai che accada anche a Lazzaro come a quel fortunato figlio della vedova che ha preso per mano e l'ha fatto risorgere, o alla figlia di Gairo che ha presa per mano e anche lei le ha restituito la vita. Lui lo può fare. Allora noi gli diremo, senza forzare la sua volontà: ma ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Avevano imparato a memoria questa preghiera, se l'erano ripetuta tante volte in quei 4 giorni, solo che Maria, dopo aver detto la prima parte dell'Ave Maria, quando è il momento della seconda parte, non ce la fa più. Si mette a piangere. Non lo dice il Vangelo, ma si capisce dal contesto. Gesù, allora, quando la vide piangere, e piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente, molto turbato, domandò: dove lo avete posto? Gesù, che cerca di non piangere, anche cambiando oggetto del discorso, dei pensieri, cerca di distrarsi, Cerca di andare verso il sepolcro, perché dice: adesso questa donna piange così, però io voglio andare, io ho in mente che questo fratello adesso glielo faccio risorgere, glielo rimetto tra le braccia e forse risolvo questo pianto. Gli dissero: Signore, vieni a vedere. Gesù scoppiò in pianto, non ce la fa. Gesù non ce la fa a trattenere le lacrime. Gesù è così commosso dal dolore di Maria e dal dolore di Marta e dal dolore e piangere anche i giudei che erano venuti con lei, gli amici di Lazzaro, ed è commosso dall'aver perduto lui Lazzaro come amico. Lui ha perduto Lazzaro, sente nella sua umanità piena, sente il dolore della perdita, che può sembrare singolare per noi, però è molto bello, perché si vede in questo brano il mistero dell'incarnazione. Vero Dio e vero uomo, è veramente uomo. E non ha voluto Gesù che la sua divinità gli facesse rinunciare a nulla dell'umano, dal punto di vista del modo di essere dell'uomo, di tutte le passioni. Gesù che esulta, Gesù che si rallegra, Gesù che si arrabbia, Gesù che ha paura, Gesù che soffre l'angoscia, Gesù che ha timore, Gesù che si commuove. E allo stesso tempo questo pianto di Gesù, dissero allora i giudei: guarda come lo amava. Questo pianto di Gesù ci dice una cosa che Gesù a noi può servire molto, no? Che La nostra preghiera, anche quando può sembrare simile o uguale nell'espressione a quella di una nostra sorella, è colta da Gesù nella sua unicità. Marta che gli dice quella frase e quel pensiero vero delle due sorelle, gli suscita un dialogo con lei sulla fede. E Maria, che gli dice la stessa cosa, gli suscita il pianto. Quindi tu, Gesù, rispondi in modo diverso alla preghiera che ti facciamo a seconda di chi siamo noi, o di come stiamo, o di quello di cui abbiamo bisogno. La nostra preghiera, anche quando è collettiva, come in questo momento, anche se è molto, allo stesso tempo molto personale, è appunto personalissima. Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro. Era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: togliete la pietra. E gli rispose Marta, la sorella del morto: Signore, manda già cattivo odore, è lì da 4 giorni. Le disse Gesù: non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio? E Marta, che in fondo gli ha chiesto questo miracolo, però poi dopo la fede ha alti e bassi, e poi la sua caratteristica di donna molto concreta non viene meno neanche in quel momento, no? E avviene quello che noi sappiamo, no? Che Gesù ringrazia il Padre: Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato. E detto questo, gridò a gran voce: Lazzaro, vieni fuori. Il morto uscì, i piedi e le mani legati con bende, e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: liberatelo e lasciatelo andare. Noi chiediamo al Signore, attraverso questo Vangelo, un aumento della nostra fede. Vedete, quando Gesù alza gli occhi al cielo, a me viene in mente, come sacerdote, il canone romano, la prima preghiera eucaristica, quella più lunga, forse nelle messe si fa più raramente, e si dice proprio, si dice dell'Eucaristia, no? Che Gesù, alzando gli occhi al cielo, rese grazie, prese il pane e disse: questo è il mio corpo. Allora, il Gesù che alza gli occhi al cielo è un gesto tipico della preghiera di ringraziamento. Nel Vangelo lo si vede, per esempio, nell'ultima cena. San Giovanni lo dice un'altra volta, quando prima della preghiera sacerdotale di Gesù, che ora è riportata nel capitolo 17 del suo Vangelo, Gesù alza gli occhi al cielo e si rivolge al Padre, come fa il sacerdote durante la messa. Noi gli chiediamo: vivremo, Gesù, vivremo la Pasqua, vivremo il Giovedì Santo nella Messa, se sarà possibile vivremo la Pasqua nella Messa, dona a noi un aumento della fede, come tu hai aiutato Marta ad avere più fede. Dona anche noi un aumento della fede. Aiutaci a scoprire che questa malattia non è per la morte, ma per la gloria di Dio, in tutte le vicende della nostra vita, quelle più grandi e quelle più piccole. E restaci vicino, vienici a trovare, anche se con qualche giorno di ritardo, e facci capire che tu piangi con noi e ti rallegri con noi. E così noi vogliamo venire da te in questa Pasqua un po' con l'atteggiamento di Maria e di Marta, che nel terzo episodio del Vangelo, che parla di queste due sorelle, che sempre narra San Giovanni poco più avanti, fanno una cena che sembra una cena di ringraziamento a Gesù per quello che ha fatto. C'è Lazzaro tra i commensali. Pochi giorni prima della Pasqua, Maria entra mentre Marta serve, Ma anche qui penso che si siano messe d'accordo le due sorelle. Forse il profumo era condiviso, perché era molto costoso, quindi avevano fatto una colletta insieme per riuscire a comprarlo e lo utilizzavano con il giusto garbo e per rendersi ancora più belle, però decidono di regalarlo a Gesù e siccome sapevano che lui l'avrebbe rifiutato, allora Maria ha un cenno di Marta, forse quando già erano passate alcune portate per cui i commensali erano placati dalla fame e più tranquilli, lei entra e addirittura rompe questo vasetto di alabastro e lo versa sul capo di Gesù e sui suoi piedi, che poi asciuga con i suoi capelli. Io penso che questo profumo, che è preziosissimo, costava tantissimo, un prezzo esorbitante. E Giuda dice 300 denari. Ecco, che questo profumo così forte, versato sul capo, secondo alcuni evangelisti, sui piedi, secondo Giovanni, secondo me, valgono tutti, no? Lungo tutto il corpo del Signore, gli sia rimasto impregnato, attaccato, no? Anche ai capelli. Per cui lui, io mi immagino questo, Gesù sulla croce, che non ha più i vestiti, ma i suoi capelli gli mandano ogni tanto, no? Magari con un soffio di vento, no? Quel profumo di Maria che lo conforta in quel luogo dove era, certo non c'era nessun profumo. Allora noi vogliamo regalarti qualcosa, qualcosa della nostra anima, qualcosa del nostro tempo, qualcosa, un proposito di seguirti più da vicino, di chiederti più aiuto, di non considerare la nostra vita cristiana come qualcosa che dobbiamo vivere da soli e tu sei lo spettatore, ma come qualcosa che tu stesso fai dentro di noi. Allora diventa più facile, più accessibile tutto. Quasi quasi potremmo dire che qualunque cosa possa essere come un profumo offerto a Dio. E la Madonna che è presente in qualche modo in tutte queste vicende, anche se il Vangelo la nominerà appunto quello di Giovanni solo sotto la croce. Ecco, la Madonna ci può aiutare a vivere vicino a Gesù questi giorni della settimana santa e del Triduo Pasquale e a fare un altro passo avanti nella conoscenza di Cristo, nell'intimità con Lui, nel seguirlo da vicino, nel donargli la nostra vita.